Sì, capisco, non c'è problema. Da me arrivava Santiago 4, facevo difficoltà ad ascoltare, però ripeto ancora una volta, Bruno già è esperto, è una persona grande, una persona competente in materia, in fatto di frequenza, e sa benissimo cosa deve fare. Adesso io gli ho dato appuntamento a dopo l'Epifania per farsi sentire bene, e sono sicuro che lo farà. Bene, bene, bene. Avanti Roberto, vediamo se è rientrato. Sono entrato adesso, ok, cosa volevo, che è rimasto quindi io, Giulio, Claudio, Antonio, Tonino, Bruno è andato via, non c'è nessun altro, lasciamo un secondino di bianco, se qualcuno vuole entrare, se no riprende Antonio. Mi sentite lo stesso? Ho abbassato un po' i watt. Ti ascoltiamo abbastanza bene, c'è anche Marcolino che è andato a prendersi il caffè. Ah, volevo salutare anche a Marco, anche a te auguroni, non ci siamo sentiti. C'è un correme atroce qua, non so cosa abbiamo acceso, è apparso adesso. Ciao Robè, mi sentite? Io sto entrando molto meno, poi sai queste feste, siamo andati non alla vigilia ma il giorno di Natale, poi oggi la mia zia che abita a 50 metri. E sono tornato poco fa e così abbiamo fatto qualcosa per passare la serata, giochi di società, ho vinto 10 euro, quindi mi è andata di lusso, anche a Natale ho vinto una volta. chi rilancio adesso? Vabbè, vai tu Robè. Penso che più o meno tutti abbiamo fatto un Natale, un capodanno un po' limitato rispetto al solito, anche noi abbiamo fatto giochi di società, ci siamo divertiti, erano secoli che non si giocava a tombola, ma anche a quello è servito, dai, per passare un po' di tempo in tranquillità. Vai Claudio. A tombola, tombola, io abbiamo fatto a tombola quest'anno. Va bene, una noia totale, basta. Vabbè, siamo aperti. Meglio parlare di altro. Dai, comunque continuate. Io intanto adesso mi allontano per preparare la cena, poi ci vedrà se c'è qualcuno dopo, dai. Avanti Giulio, riprendi, rimango in ascolto. Ok, va bene, d'accordo. Sì, l'unica cosa che non è cambiata, perlomeno qui, l'unica cosa che non è cambiata è la fase culinaria, Robè, come del resto sono sicurissimo in tutte le altre case è stato uguale, ma per quanto riguarda poi il seguito del Natale e anche del Capodanno, sicuramente è stato tremendo un po' per tutti, dai. Ci sentiamo tutti quanti carcerati in un certo senso, la lockdown e contagi e paure soprattutto in atto, perché ci sono, è inutile che qualcuno dica no io non ho paura, no è vero che tu sei baulaggio se dici così, perché la paura fa parte dell'uomo, anche dell'uomo più coraggioso del mondo, per cui queste cose non le voglio sentire da nessuno, tutto lì. Avanti Tony. Ciao Claudio Rix, ci sentiamo, chi ha fatto la tombola? La nostra era una tombola particolare, ti spiego il perché particolare. In casa mia ex, mia figlia, abbiamo fatto una tombola con mio figlio che era posata e con mia nuora, con la videochiamata. Era troppo bestiale, troppo bella. Avanti, saluti Bruno. Roberto, volevo dire, andò. Ok, Claudio, ci sentiamo magari se coincide più tardi. Di là quante fai a pigliarli, tua figlia, dalla cosa, la posata. No, se fa soldi giocavamo così e basta, capito? Che faceva poco, poi si cambiava prima, insomma, ci siamo divertiti. Poi il gioco di nome di cosa, città, nome, eccetera, capito, con una lettera. No, ci siamo divertiti, dai. No, è bello, poi quando si sta in compagnia, in buona compagnia, anche qualunque gioco fai si sta divertendo, cioè diverti col divertimento, dai, è bello così. Diciamo era un po' silenziosa rispetto ad altre volte, ma poi già è andata abbastanza bene, dai, già sono stato bene sia a Natale, il 25, che oggi, il primo. Quel ragazzo che è morto a 13 anni, quell'uomo, non era un petardo, l'hanno sparato. No, non so niente, non ho sentito niente, questi sono quelli infami, che anche a Napoli ho sentito una ragazza ha preso una pistolettata da era in terrazzino, un proiettile variato l'ha presa in faccia. Sì, il proiettile variato. Sì, questo è successo nel campo a Roma di stesso, capito? Prima si presumeva che era Bettardo che si batteva la pancia, lui era totale, è morto lì, 13 anni, invece il totale era verificato che è stato sparato. Che allucinato, che allucinato. E quell'altro di Cagliari che ne ha perso la mano, 29 anni, quell'altro ragazzino di 12, ferito gravemente al petto e alla mano. Ma cacchio, ma io dico, ma che gusto c'hai a usare questi cose? Io che sono candelutti, non sono petardini, a parte che io, anche se sono raudi, ci starei molto ma molto attento prima di maneggiarli, con i guanti, le dovute precauzioni, ma troppa gente si fida di queste cose, io ho terrore. Vabbè, ma che lo date una mucculosi, lo datene. Ma guarda, hanno poi fatto vedere che hanno sequestrato il Covid-19, che è una bomba che uccide pure, è pericolosa. Io 30 anni fa, 35 anni fa, la verità, provavo anche io bombette, ma non questi diventi. E ti dirò una cosa, poi ho imparato, ho detto no, invece di buttare tanti soldi, io le compro il mangiare. E da quella volta lì ho comprato solo mangiare, già sparano gli altri. Ma infatti si vede, più stanno andando, più sono pericolosi, su più sono potenti, e con che fine fanno? No. Non lo so. Oh, guarda, ieri non sono durati molto i fuochi, cioè gli scuppi, però ce n'erano 4 o 5, erano delle bombe, secondo me erano zona di carbonati, forse Claudio li ha sentiti più forte di me, erano proprio tipo mine, quei colpi secchi, cupe, boom, non era quello scoppio classico dei Bengala e cose del genere che fa uno scoppio secco, questo era proprio duro duro lo scoppio. Giulio, dalla parte tua com'era invece il divertimento? Il divertimento non era un granché. Sì, qualche scoppio già c'è stato anche qua, qualche pazzuglia c'è sempre tutti gli anni, ma alle volte di tanto in tanto anche entro l'anno, senza bisogno di feste né di Natale né di Capodanno, qualcuno ogni tanto si diverte a fare gli artificieri, per cui non è, anche quando c'è qualcuno qui, tempo fa c'era uno che si è sposato e non ha fatto altro che fare l'artificiere anche lui, qua l'ha fatto un poco di casino di notte verso la mezzanotte, tardi, ha incominciato a sparare per tardi eccetera eccetera, fuochi d'artificio di ogni genere, solo perché si era sposato e ha disturbato tutti i guatini, comunque quello è un altro discorso. Va bene, dai signori, a me mi hanno già chiamato per la cena, per cui vi devo lasciare, vi saluto e vi rinnovo gli auguri a tutti quanti, io ho ascolto il vostro finalino e dopodiché faccio QSY alla tavernetta per andare a tavola, dai. Tony, adesso raccontagli a Roberto quando si faceva la battaglia navale o si giocava a dama tramite baracchino, tu hai fatto né più né meno la stessa cosa con la tombola, con la tua famiglia, con tuo figlio lì a Posada, tramite WhatsApp eccetera eccetera. Ci sentiamo, dai, ti rilancio Tony, ascolto il finale e dopodiché chiudo. Ciao Roberto, ciao Antonio, ciao Tonino, ciao Claudio, se sei ancora all'ascolto e quanti ce ne sono. Salutoni a tutti, QRT per me dopo il vostro finalino. Avanti Tony. Anche qua vado a fare pronto e io devo chiudere. Mi dispiace. Ok, ciao Giulio, buon corretti, salutoni, ci sentiamo, buon carica. Ciao Roberto, buon carica, che a te quando lo farai. Ciao Antonio, ciao Claudio, ciao eventuali ascoltori. E ciao Marcolino, chissà questo caffè, cazzo non l'ha pigliato. Non proseguo, dai, se no mi si raffredda tutto alla cena. Ciao ciao a tutti, riprendere a me. Ciao Giulio, siete tanti a te, buona cena se devi farla. E idem Tonino, buon tutto, sempre un piacere ascoltare, farebbe questioni interessanti. Ti rilancio adesso, come si chiama, Antonio per il saluto e poi se Claudio vuole rispondere, se non è troppo lontano. Avanti Antonio. Capa, salutoni a te Giulio e a te Tonino, ce la risentiamo. Avanti Claudio. Claudio forse sta preparando, vediamo se Marco Coso, come si chiama, Condor è in ascolto. Avanti Marco. Sì, scusate, qua pochi mi chiamano destra manca, quindi ci sono e non ci sono, quindi saluto Giulio, ho sentito che ha salutato, saluto Claudio, non so chi altro abbia fatto quelle T, comunque li saluto entrambi. E qua mi stavo apprestando a fare cosettine in casa, dai. E che altro dire? Fai robe. Io pensavo che questi giorni ci fosse, visto che siamo tutti più o meno rientrati in casa, qualche personaggio nuovo, qualcuno che volesse entrare, magari di vecchia data, oppure quelli che entrano poco, invece di meno degli altri giorni. Ehi, Vabbè, io ripeto, sto andando qui da parenti, mi sono fatto anche l'autocertificazione per 50 metri, ma sia che trovi quello di turno me. E va bene, io sto ascoltando anche poco e niente, Robè, poco e niente, però quel poco e niente che ho ascoltato non ho più sentito doppio rum in questi ultimi giorni, confermi? Doppio rum forse l'ho sentito ieri sera, prima di uscire, ed un attimino di sfuggita, proprio salutato e boh. Poi non so, c'era Antonio, mi chiede Antonio, forse con Antonio è rimasto. No, è entrato stamattina. O stamattina che sia, però c'è qualcuno sotto che sta cercando di entrare, avanti chi vuole entrare? Ho sentito qualcuno chiamare, va bene, riprendi tu Antonio. L'ho sentito stamattina, ci siamo sentiti, a voglia, ho fatto una chiacchierata, è entrato stamattina. Ho perso la condizione del tempo, io quando sono giorni di festa non capisco molte volte se la mattina o se la sera, stamattina sì, prima di andare a pranzo da mia sorella e mio padre, dai, mi sto confondendo, ieri non sono entrato nel bar. Ieri ho fatto baldoria qua. Cosa mi hai chiamato? Abbiamo chiamato se ce l'hai ancora, perché ha salutato Tonino e coso e l'altro, come si chiama, Giulio, ho detto se c'è ancora Claudio facciamolo salutare, ma probabilmente era impegnato in altre cose. Ma sto facendo cosa, buonasera a tutti comunque. Ma da quando è che sei diventato cuoco, Claudio? Da sempre, io sempre ho cucinato, sempre, da ragazzino, mi piace molto, ho fatto il cinghiale al sugo, l'ho preparato, vabbè, ho fatto la pressione prima, un pochino, affinché riesci a cucinare col sugo, perché quando devo fare gli occhietti col sugo cinghiale. No, sapevo che eri appassionato, no, io cucina nel macro viago, proprio zero assoluto, non so fare neanche le cose alimentari, non mi è mai piaciuto, è proprio una cosa che non mi interessa per niente. Sono! Alza, venga a mangiare! Perché hai sempre vissuto, ti ho sempre preparato, io purtroppo ho fatto il trasferista per tanti anni a Cagliari, quindi cucinavo non solo per me, anche per i miei colleghi, perché eravamo in quattro in casa, perciò poi lavoravo fuori, lo stesso cucinavo, ho vissuto da solo lavorando fuori, e quindi ho imparato tantissime cose, tante me le hanno insegnate. Ti dico che c'è una buona cucina, perché anche mia figlia, che come me, nonostante abbia anche studiato la parte della cucina, che ho fatto l'alberghiero, le faccio 7-0. Non ti ci vedo col grembiule e col coso qua. Ma che sono anche io così, Che a te non piace cucinare, a te non ti piace. Capito? Sono un grande cuoco, grande, che so fare qualsiasi cosa, tutti i tipi di primi, normali e di quelli squisiti da ristorante, so fare tutti i secondi, so inventare qualsiasi cosa, so fare tutte le salse, so fare tutto, e soprattutto so cucire, stirare e lavorare per terra. Chi sa di cucire, ma mi serve pure uncinetto. Uncinetto non l'ho mai segnato, mamma, però ti posso dire che so cucire bene, so usare la macchina da cucire, so fare tutto. Una donna mancata. Adesso te ne tagli un pezzo di sotto e ti fai il cambio di identità e ti vai a casalinga. E allora faccio un po' di soldi. Come traduta, ci sono uomini che sanno fare tutto, giustamente. Come me un po' mi arrangio a fare un po' di tutto. So cucinare, so lavare, fare la lavatrice, so fare tante cose. No, io zero, ripeto zero, ma proprio niente di nulla mi so fare, no? Proprio. E non me la vergogno a dirlo, perché una cosa, quando non ti piace una cosa è così, no, non mi piace, proprio zero. Ok, Mario, se ce la mangiare già non mi tiro indietro, quello sì, ma già mi arrangio. Se vivi da solo come fai? Vai a casa di tua sorella, a casa di tuo padre, a casa di tuo fratello, se vivi da solo come fai? Già lo so, è diverso, tu per il tuo questione di lavoro ti sei arrangiato, io grazie a Dio qualche cosa già ce l'ho sempre buttata da mandigare. Ok, facciamo rientrare Marcolino, Marco avanti, se ci sei batti un colpo. Sì, sì, io fesserie so fare, non roba elaborata, però visto che mamma ha lavorato in gallura come segnante dal 90 al 2000, io a Malagana le fesserie so fare, niente di elaborato, ripeto. Claudio, ma tu avevi postato una volta, o l'avevi messa sull'immagine del profilo, c'eri tu col cappello da cuoco, ed era un cappello da cuoco tipo, mi ricordo, quello di McDonald's, può essere. Il cappello di mio figlio, devi dire, mio figlio, lavora a Tortona, ma che ora? È quello allora, io. Me la ricordo quella foto, l'avevi lasciata poco, mi tipo un giorno, due, nemmeno, e poi l'avevi tolta. Perché era bufala. Avevo tolta sì. Però c'ho tutta la divisa, io non metterò. C'ho barretto da cuoco, la cuffietta da cuoco, tutto. C'ho anche la divisa quella degli stage con i guanti bianchi, tutta. Vabbè. Mi ha detto che ti servono, sei servito e venito. Sono dal 4 dicembre io sto facendo il servizio, figurati tu, perché mia moglie è ancora così. Cosa vuoi dire? Purtroppo è stegai. Ma che luci fai qua? Luci non ne parliamo, a volte canovi siciliani, ti faccio dire più ai canovi siciliani, ti che lì la cassata, tutto so fare, tutto, ma credo questi c'era. Dico, che ho preparato, l'ho fatto mezzo con la toma. E siccome sta già diventando un pochino duretto, ho fatto tutto a pezzi, ho messo nella teglia, ho fatto la chioma pasticcera e l'ho tutto fatto tipo tiramisciumi. Ho capito. Allora, quando devo fare un regalo ti regalo le ricette di nonna papera o di cose che si napparudi. Le parodi è buono rincolare, non la cucinare. Galera, chita, quella cosa, quella che faceva le ricette, galera. Antonella Clerici, la bionda? Cosa Antonella Clerici? Non vedrà. No, galera, sua germana. Come le chiamo Antonino, non sua germana. Lei chiama Antonino. E a mania come ti dragava i glas? Ma io cucino, ma non so come la mangiare. Cucino tantissimo, ho preparato quasi tutto, abbiamo comprato pochissima roba. Ho preparato l'insalata russa, una fetta veramente bene, buona, che ancora ce n'è un pochino, sarete me la ciullo. Ho fatto di tutto di più, Ho fatto la salsa tornata con il vitello tonnei, ho fatto un sacco di cose. Complimenti, non lo so, non ti ci vedevo, dai, pensavo che tu eri di quelli solo a mangiare, che invece abbiamo scoperto le virtù culinarie di coso, di Claudio. Come sto a sapere quanti inviti ho ricevuto io l'anno scorso, senza il Covid, a qualcuno sono andato, proprio per la cucina, capito? Qualche cosa mi occupo sempre io. Anche quindi anche arrostite fai tu? Arrostire mi piace poco perché non è cucinare, arrostire, mettere due pezzi di carne nel fuoco e tirare fuori, quello non essere, non è niente. A me piace proprio cucinare, capito? Cucinare, fare cose buone, cose. So fare tutti i minestroni, passate di verdura, so fare tutto Romè, non solo cazzate, tutto, guarda la testa. Eia. Vediamo, Antonio è andato via o c'è ancora? Non ho capito. Sono qui. Eppure io già mi arrangio abbastanza. L'altro giorno ho fatto la pasta al forno, ho fatto. Ho cucinato ogni giorno la lasagna, ho cucinato l'igna manera, altri tipi di gigione, mi arrangio a fare tutto, mi arrangio. Oggi mi abbiamo fatto, l'ha fatta Sara un po', abbiamo fatto la pasta di lenticchie, pure io già mi appento a queste cose, e per mancata di tempo molte volte, sai. Una cosa, il gas già non ti manca per cucinare, Antonio? Sì. Antonio, quello forse è uno dei pochi cuochi che non ha mai avuto problemi di gas e che gli manca la bomba. Non ho capito. Antonio, tu sarai uno dei pochi cuochi che non ha mai avuto problemi che gli mancasse la bombola, anche di domenica ce l'ha sempre avuta. Io me la tengo sempre di scorta. Già lo credo, se non te la tieni tu sarebbe il colpo. Se poi ti manca, ti avvicini e tieni i billigantini vuoi. Rosa, vengo in occhio sotto la cara. Ah, così. Vediamo un pochettino, lasciamo un secondino di bianco, se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprende Marco. E adesso decollo. Ma Bruno aveva chiuso lo stesso oppure era all'ascolto? Perché qua zero totale. Mi sa che lo sentiva solo Roberto qua su. Io lo sentivo con la radio grande, basso basso, appena appena, ma proprio nel fondo lo sentivo. Con l'altro c'era un bel fruscio di QRM, molto più rumoroso, di 44, lo sentivo però male, col grande lo sentivo un po' meglio, però era basso basso proprio a livello di QRM, il segnale era 1, anche manco si muoveva lo speaker. Cosa volevo dire? Claudio, quindi a casa tua, l'alternato è tu e tua moglie per cucinare? Loro hanno anche il robot da cucina che fa di tutto e di più. Ah, usia. Sì, molte cose gliele velocizza, gliele facilita a dismisura. Un po' di tutto fa, io non so manco come funzionano appunto questi robot, però fa impasta, trita, cuoce pure credo, eh? Bisogna chiederlo a Claudio, vediamo se è rientrata. E dai, l'avremmo chiamato un attimino. E vabbè, poco fa stavi dicendo che con questi giorni in festa non distingue un giorno da un altro. Io ti dico anzi, con questo Covid tutte le giornate sembrano uguali alla fine, per carità, che hanno schifoso, guarda. Pucci. E come belle notizie dice un ulteriore aumento dei positivi con i tamponi, capito? Stanno iniziando bene. No, ma la tristezza, lo sai, a parte tutta questa roba qua, che cazzo, io ho le foto dell'anno scorso, che ho fatto dell'anno scorso, del primo gennaio, di 2 anni fa e di 3 anni fa, esattamente il primo gennaio, perché c'ho Facebook e mi appaiono i ricordi. Cacchio, era a Platamona, c'era una giornata stupenda, un caldo, c'era gente facendosi il bagno, perché fanno il bagno del primo, un bel di gente, posso dire, era una giornata, c'erano stati 16 gradi, dai, 15 gradi, ma era una giornata stupenda. L'anno prima ero andato con mia figlia in bicicletta, insomma, chi canno bari di poi filmato io con le Black Rain, pioggia sporca, sempre più venti, una tristezza oltre la tristezza. Sì, è vero, è vero. E poi molto più freddo di altre volte. Io ieri in casa ho preso per non avere, siccome vado sempre da una stanza all'altra, no? Non ho acceso stufo, ho preso tanto di quel freddo che mi ha preso un po' sempre là, mi viene la voce un po' afona, mi prende subito alla gola. Va bene, io rilancio Antonio e rimango in bianco, che stavo scaldando la macchina del caffè, me lo faccio decaffeinato perché è già tardi, se no poi è un problema. Vai Antonio, bianco per me. Cappa, dai. Ok, io tra poco faccio un altro passaggio e vado giù a cucinare, dai. E via. Forse c'è portante o qualcuno che vuole entrare, avanti, vuole entrare. Beh. Ce la facciamo? Sto andando, sì. Ma senti Marco? No, negativo, qua sento Antonio benissimo e sotto non sento nulla di nulla. Ecco, non sento io. Era forte, copriva Antonio. Ma qua non però dava fastidio. Ah, mi ne ci raguro, riesci a vedere. Vado a vedere. Qualcuno che non se ne è accorto l'ha fatto senza accorgere, però quando stavi parlando ti ha dato un paio di colpi e ti ha oscurato. Addirittura oscurato, guarda a vedere un po'. No, adesso non c'è più, ti ripeto, può essere che qualcuno ha fatto una prova, ha dato un paio di colpi, brum, brum, brum, la portante schiacciato. Non lo so chi sia, sarà fatto, buon divertimento per lui, cosa avete di che acclare? Mi volevo chiedere a Claudio, stavamo parlando con Roberto del robot che avete da cucina, digli cosa tutto fa, me l'avevi detto una volta però non mi ricordo cosa tutto faccia, comunque aiuta moltissimo quanto ho capito, vai Claudio. Non lo uso, uso mia figlia per fare praticamente la verdura a vapore. Ma fa molta roba, mi avevi spiegato. Appunto, volevo sapere se poteva anche cuocere, a parte impastare, tritare, che ne so. Quindi cuoce pure, roba, capito? Io poi di quelle cose non ne conosco nulla. Vabbè, riprendete, caffè esecutivo bianco per me. Vai Claudio. Sì, fa tutto. Costa 1.400, 1.500 euro, costa una cosa del genere. Non mi interessa. Non ti altro riprendi. KK, sì, già lo so già. Ehi, Yami, adesso sai cosa faccio? Scendo giù e comincio a cucinare, che ho fatto il sugo, ho fatto buono, e si cucina e si mangia. Cacchio, c'è ancora tempo di mangiare, Antu. Sì, vabbè, già un'ora che ho mangiato. Ah, ho mangiato ora. No, ancora non mi è venuta voglia, ho mangiato abbondantemente, ma proprio abbondantemente un bel uccio. Già l'altro giorno, adesso magari più tardi, tra un'oretta, non so se mi manderei qualche stuzzichino così. Scappa, e noi andiamo a fare un yosho. Oiuia. Ecco qua. E si va, e poi chissà che va avanti, mi la mangio domani, mica ce la butto via. Non si butta niente, cacchio, soprattutto se è fatta al forno, mi dammela a me, che te buco ne mangio. Anche 3 giorni sto mangiando, di 3 giorni prima me la mangio pure la pasta al forno. No, solo il gigione so. No, vabbè, la pasta no, a meno che non sia insalata di riso e cose così, però la pasta al forno invece poi te la scaldi è buona, pure più buona di quando l'hai fatta. Lo so, perché prendo il condimento. Ok, dai, io vado. Ciao, Rari, continuate. Ehi, Antu, buon proseguo, dai, non mangiare troppo, cacchio. Ma domani lavori tu, Antu? So che lavoro, domani mattina. No, io non aggiungo, domani ho detto a Danilo, tanto è inutile aprire un paio d'ore, cosa avremo? Ma è andato tranquillo, riposato, vado a prendere il pane e poi metto, vabbè, non so se vado in giro da qualche parte, non credo, perché non c'è niente da fare. Rimarrò a casa e mi organizzerò qualcosa. Ok, comunque, buon tutto, Antu, ti rilancio a Marco e poi Claudio per i saluti. Marco? Antonio, buona serata, buon tutto. E sentiamo quando capita, ok? Io sto facendo molto più radioascolto in HF quando sono a casa. Ecco, sto entrando meno. Bene, vai Robè, dai, sono in cucina, riprendete voi. Okay. Oh, ho provato la radiolina piccolina poco fa, quella tipo la tua, Marco, a proposito, te lo volevo dire. Mi è arrivato l'adattatore, quello il mini jack 3.5 mono, e l'ho provato con l'antenna, e ti posso dire c'è una bella ricezione anche in 27, l'ho provata. Sì, allora sì, con la 5 ottavi, sì, ancora riceve, diciamo è più critico in 80 metri, io sono anche un po' coperto per il continente italiano, no? Proprio per la penisola. Però con l'antenna risonante da macchina è andato al centro ecologico un bijou, la ricezione è un bijou. Cioè con l'antenna adatta per quanto veicolare ma risonante è una bella ricezione, devo dire. Come il 6,60 più o meno, però quella costa molto meno, io poco volevo spendere, quindi per me è di lusso. Stavo anche iniziando a provare quei programmi per decodificare i segnali digitali, però poco lo conosco e devo fare pratica. Ok, dai, riprendete, sono in cucina, vai Claudio. Va bene, ciao Marco, buona serata, buon tutto, alla prossima, ci riascoltiamo. E anch'io vado, dai, ciao Robè. Gappa, hai fatto bene a dirmelo che non ci sei, così domani mattina non ci faccio. Anch'io vado a prendere il pane da cosa di Doggiano e poi me ne rientro a casa. Vi saluto, ciao, buon fine serata a tutti, rinnovo gli auguri per tutti e alle prossime. Se coincide a dopo, se no a domani. Ciao. Ciao, buon tutto, dai. Io tengo acceso se nel frattempo entra qualcuno, se no pazienza, se no faccio un giro in altri canaletti. Ok, di nuovo saluti, rinnovati, vediamo sul 10 se c'è qualcuno che vuole entrare, se no anch'io rimango in QRX. Ciao Claudio, ciao, ci sentiamo, ciao. Vabbè, io prendo la palla al balzo e chiudo direttamente, così mi attacco alla TV. E sentiamo quando capita, ok? Ciao Robè, buona serata, buon tutto, buona cena quando la farai. Ehi, ciao Marco. Milla, questa era? Ehi, a chi è avanti? E poi è molto forte il segnale. È come che non uscisse, è come se qualcuno non uscisse di radio, è 9.15 qua, più o meno. Ah, qua è forte, è 9.30. E magari qualcuno che sta provando qualche apparecchio magari spento da tanto e non riesce a uscire, dai. Va bene, dai Robè, rinnovo i saluti, QRT esecutivo. Ciao a tutti, ciao. Sì, ok, avanti amico, se vuole entrare o non so chi sia, avanti. Io tengo qua acceso il canale 10, se nel frattempo qualcuno vuole entrare, se no arrivederci a tutti, anzi a risentirci. Oh Roberto! Roberto! Dimmi a tu! Sì, da! Ho messo l'acqua a bollire adesso. Petra tengo una troppo sorsalito qua. Là. E allora c'era questo, forse qualcuno che stava provando, l'ha sentito anche Antonio, a lui le arrivava 9 più 15, a me mi arrivava 9 più 30, un pochettino più forte di terra. Sì, cappa. Sì. Quando attacco già arrivo forte. No, vabbè, ma non ti ha disturbato più di tanto, ha dato due colpi di portante e basta, secondo me Mario non l'ha fatto con intenzione, almeno spero che sia così. Sì, boh, non lo so. Oh, yeah. Adesso sono con 4 watt normali, ma dovresti sentirmi. Ah, Giulia, ti ho ascoltato anche con la radiolina prima di accendere, non nell'altra stanza, quando stavate parlando ti sentivo con la radiolina, figurati, ed è quanto più piccolo di un coso, è quanto un pacchetto di sigarette, le dimensioni di un pacchetto di sigarette. È vero, Robè, mi senti con la cosa in gomma. Che cos'è in gomma? Non è antenna, c'è un'antennina di quelle telescopiche piccoline, sarà 15 cm d'antenna, non di più, 20 cm, dai. Vabbè, comunque mi sentivi con un antennino. Certo, ti sto dicendo che funziona benissimo, poco fa ho attaccato l'antenna esterna per togliermi il gusto, no, c'era quello bruno e quello lì, cazzo, anche poco poco, però lo sentivo anche con quello. È allucinante. Perché è lontano, se si mette una boomerang, anche batterebbe una boomerang a casa sua e si sente da Dio, poi si sente forte. Ma secondo me lui non stava uscendo nella radio, probabilmente non aveva un buon piano di massa, è impossibile che non lo sentivamo. A me Luca, col portatilino dentro casa, quello, il portatile piccolino che ha 2 watt di effettivi dentro casa, con l'antenna in gomma da 30 cm mi ascoltava, e io con la radio grande, antenna FM e tutto, lo tiravo proprio nel fondo, lo sentivo, probabilmente non stava uscendo lui, ci avrà avuto le stazionarie a 1000. Sì, adesso ti ascolto meglio, tu sei Bruno. Antonio, senti sì, ti ascolto anche col portatile, segnale è 0, sei 1, però radio è abbastanza comprensibile, diciamo 3, dai. Non mi senti più così. Come? Chi sei, avanti? Io ero. Sembravano due persone diverse, perché sentivo basso basso uno e poi guarda se mi senti così adesso, pensavo fosse un'altra persona. Sì, sono col collo. Non la mara, spegnilo. Ero col portatile e con le batterie prima. Figurati, tanto che non bruciarti l'apparecchio vicino, quando vai così che schiacci tutta la potenza a pochi centimetri bruci tutto. No, già c'ho 4 watt, meno male, ricordo ce l'ho spento. Ma se sei vicino, c'hai acceso in ricezione, spacchi tutto. Non ti fa niente. Buttati, non voglio l'uniare attaccato. Vabbè, quello è normale, dai. Ciao, con pochi watt non succede niente. Certo, mi ero preoccupato, ci avrei avuto l'amplificatore attaccato, non l'avrei fatto. Sì, facciamo un attimino di bianco, vediamo se nel frattempo qualcuno voglia rientrare. Nuda, vai a tu. Con l'amplificatore attaccato non l'avrei fatto, ma con pochi watt, vabbè, va giù l'antenna in 18, va giù. Con pochi watt già non succede niente. A me una volta mi è capitato, ma era un secondo, cioè avevo le due radio, quelle grosse, attaccate tutte e due sulla stessa frequenza. C'avevo il commutatore, siccome c'ho il commutatore antenna a 3 uscite per le radio, più un altro grosso, vabbè, per quelle radio ne avevo a 3 uscite, anche non mi sono accorto, c'avevo il coso attaccato. Meno male un po', il commutatore gli ha tolto qualcosa, se no mi scioglie la radio. Sì, vabbè. Oh, amplificatore attaccato. Oh, ma quando sei diretto col cavo è come che tu gli stai attaccando tutta la potenza direttamente allo stadio di ingresso dell'antenna, sciogli tutto, il commutatore me l'ha salvato, se no guai. Ho visto l'apparecchio e ho detto buh, sciolto, invece meno male si è salvato. Cappa. Hai fatto bene, hai fatto. Cioè, no, ma non succede niente, se non stai spingendo molto non succede nulla. Lo sai quando si brucia, quando è pericoloso, quando spingi? Allora è pericoloso, puoi bruciare il finale di trasmissione. Insomma, se tu lo mandi direttamente all'antenna, anziché dove deve uscire il segnale, tu li mandi all'ingresso di un segnale talmente forte, qualche componente va in sovraccarico e lo bruci, per cui bisogna stare molto ma molto attenti. Se prendete questi apparecchi, vari, l'importante fissa danno 10 watt, ma i modulati ne danno 70-80 watt. Lo so che è così. Ehi, eccomi. Scusate, una mia partita la portante, non volevo. Vabbè, ti volevo dire una cosa. Dimmi tutto. Questi lineari, ti faccio un esempio terra a terra, no? È molto bello il 503 dell'RM Italy, no? Per evitare di sovrappilotarlo, perché a molti succedeva, magari c'erano picchi di modulazione, no? Pompava con la modulazione all'apparecchio. Hanno fatto due versioni, c'è la versione classica, nuda e cruda, e poi c'è la versione HD che ha all'interno, non so con che sistema l'abbiano usato, no? L'abbiano fatto. Lo puoi pilotare anche con wattaggio più alto, proprio per evitare sia di danneggiare l'ingresso delineare e sia di uscire saturo, capito? Fanno due modelli dello stesso KL503. Stavo cercando inutilmente recensioni su YouTube, però ancora non sono molti che l'hanno provato, forse uno, ma non spiega più di tanto. C'è all'ingresso qualcosa che regge meglio il carico, il pilotaggio, capito Robè, vai. Allora, probabilmente il principio è lo stesso, quello che hanno adottato, a me me l'ha fatto questo progetto, me l'ha fatto Gianni Ritti di quel tecnico, Giovanni, non so se te lo ricordi, sulle casse, sui diffusori, quelli grossi, che c'ho di lì, che carichi molta potenza, per evitare di bruciare sul Twitter, gli ha messo una specie di lampadinetta, piccolina, credo che sia una piccola lampadina a neon, quelle piccoline, una lampadina particolari, tipo quelle di scaldabagno, in modo che dissipi tutta l'energia di sovraccarico, ci puoi mettere anche 1000 watt su quelle casse, non succede niente, non bruci Twitter. E penso sia lo stesso principio, c'è un circuitino, una resistenza, quello fa da resistenza, lo dissipa in calore, cioè il calore che gli stai dando ti si accende la lampadina, al limite ti si fuma una lampadina, non è come un fusibile che ti interrompe e basta, questo ti si accende una lampadinetta dentro, ed è un circuito che ho visto, me l'ha detto lui, l'ha fatto lui, però lo stavo leggendo su internet, lo fanno anche per altri tipi di apparati, e ti posso dire, è una cosa semplicissima da costruire, però efficace, penso che sia lo stesso principio sui ingressi degli amplificatori. Io non metto bocca, anche io ho pensato a una resistenza o qualcosa del genere, qualcosa che dissipi i watt in eccesso. Ero interessato molto al pilotaggio. Per esempio 4 watt col normale, 4 watt con quello, vedere se effettivamente satura meno, se rende meno lineare, capito? Perché avendo questa cosa all'ingresso magari dà meno watt, a parità di watt all'ingresso ne dà meno l'uscita, è tutto da provare, vabbè. Vabbè che è roba che non interessa a me, se voglio far di ex basta quello piccolino, mi sento li dà, forse li dà, in banda laterale. Ok, riprendi Antonio. Marco, con sempre Antonio, mi adesso ho trovato uno schemino che mi ha mandato lui, con due induttanti VK200, due condensatori a disco da 2% kilo picco messi in serie alla trasmissione, con questo riduci rientri di radiofrequenza. Sono per girare la pasta. Ehi a tu. Robè, una volta per i baracchini che uscivano con troppi watt non erano regolabili, tipo il President Jackson vecchio, che se ricordo male aveva 10 watt in AM, la ZG vendeva quel famoso riduttore di potenza che avevo preso io anche, non so perché, non mi ricordo, ti permette di attenuare fino al 10% la potenza, sembra un Rosmetro ZG e c'ha la levetta per attenuare, capito? Da 10 la portavi che c'è un watt, 2, ed era utile proprio all'epoca per pilotare i lineari. È tutto lì. Vabbè, quello è un attenuatore, sì, già lo conosco, però sono cose molto così fittizie, dai, perché se arrivi al 500 watt lo sciogli, per dire, anziché dai, facciamo esempi diciamo esagerati, per dire, se su 10-20 watt riesci a attenuarti, ma se tu per sbaglio c'hai un amplificato, non un amplificato, una radio di quelle serie che ti tengono fuori 80 watt, lo sciogli, quella affare lì non serve a niente. Mentre con quel sistema che sto dicendo io c'è proprio una lampadinetta, non mi ricordo che tipo di lampadine sono, perché sono tipo quelle dello scaldabagno, tipo a neon, piccoline piccoline sono, e poi c'è una specie di condensatore, mi sembra un'induttanza, li metteva, in modo che tutta l'energia in più si trasformava in coso, in energia luminosa, anziché scaldare la resistenza, perché la resistenza poi scalda, arriva a un certo punto e non esiste più la resistenza e passa comunque il segnale, mentre in quel caso lì resiste molto di più perché si accende piano piano, poi quando è per dire, in sovraccarico si illumina tipo come una lampadina, al principio di una lampadina che gli dai per dire 10 volt, poi 15, 20, poi arrivano fino a 200 volt a voglia, per cui non bruci niente. Mentre l'SPE, un amplificatore italiano a transistor che costa una marea di soldi, è da 2 kW, quello lì li puoi dare da 1 watt a 500 watt, 200 watt, in automatico si regola la potenza d'ingresso, c'è un circuitino all'interno, si regola automaticamente le stazionarie, ci fa attaccare 3 antenne, in automatico commuta l'antenna sulla frequenza di trasmetto, è una cosa strabiliante, chi l'ha progettato è un brevetto mondiale, questo di tutto il mondo, probabilmente dicono che c'è l'amplificatore più innovativo che ci sia in circolazione, a transistor stiamo parlando, e c'ha quasi 2 kW. Capirà chi c'ho? No, qua a Sassari non so chi ce lo possa avere, forse quelli grossi grossi la di amatori, qualche amatore l'ha preso in continente, io ho visto tutta la prova su una rivista che ho io, che non c'entra niente con i CB e cose del genere, una rivista di satellite, hanno intervistato questo ingegnere, ma è una cosa allucinante, cosa ha progettato, cioè tu li puoi attaccare qualunque potenza, perché c'hai un Kenwood che tira fuori 200 watt, lui in automatico si regola la potenza, dopodiché c'hai 4 antenne, mi sembra 4-5 antenne, non mi ricordo quante, poi automaticamente ti commuta l'antenna, ti fa la cordatura in un millisecondo, una frazione di secondi proprio, automaticamente ti fa l'accordatore e tutto, per cui anche se ci con un pezzo di fil di ferro c'ha un sistema di accordatura allucinante, velocissimo e non bruci niente, non bruci né apparati né nulla, poi non è ingombrantissimo, cioè come dimensioni non è grande grande, però c'ha una resa, un rendimento spaventoso, infatti negli Stati Uniti ne hanno venduto una marea di questi. Perché? Sì, ciao a tutti, auguri innanzitutto e buona serata. Ho provato a chiamare poco fa, ma purtroppo c'è stato un disguido sul modulatore dell'apparecchio. Mi dite se mi state ascoltando, presumo di sì. Sì, mi state ascoltando perché vedo finalmente un piccolo errore su un apparato. Vi chiedo scusa per poco fa, non ho voluto un po' cambiare frequenza per cosa era successo. Quindi auguri a tutti Gianfranco, comunque riprendi Roberto. Sei in compagnia mia di Marco e Antonio dall'altra parte, ti lascio prima Antonio e poi passerà a Marco, avanti Antonio per Gianfranco. Cappa dai, saluto Gianfranco e buon anno. Ascoltate, io vado che sono un po' quasi pronto e ci sentiamo dopo se coincide, dai. Ehi, buon tutto, dai, anche a te buona carica, anche io tra qualche minuto stacco, avanti Marco per Gianfranco. Kappa. Ciao Gianfranco, ben sentito dopo vari giorni, auguri anche a te, che quest'anno sia migliore, ma come ho detto prima mi vergognavo a fare gli auguri prima del primo del 2020, lo sai, mi sembrava di insultare a fare gli auguri, poi vabbè li ho ricevuti da qualcuno via WhatsApp a Natale eccetera, quindi avevo contraccambiato. Riprendi Gianfranco. Sì, ciao Antonio, buona serata, alle prossime e buona cena, auguroni ancora. Marco, sì, sono stato assente perché sto ancora sventiando con le configurazioni piuttosto rognose dei nuovi apparati. Tra l'altro il guasto era dovuto proprio a quello perché stavo emettendo dei segnali particolari. Insomma, entrando nel menu mi sono accorto che era disinserito il microfono e attiva solo la funzione di trasmissione dati. Quindi, colpa mia, rincoglionimento dal menu. perché stavo passando da un minuto un apparato a un minuto all'altro, quindi in un disastro. In compenso sull'altro apparato sono riuscito finalmente a riascoltare le stazioni in HF Broadcasting, era ora. Veramente una cosa di cui pensavo di aver perduto oramai la possibilità d'ascolto. A te Roberto. No, ti ascolto bene, ma è cambiato apparato rispetto al solito, è sempre lo stesso? No, l'apparato è sempre lo stesso, nel senso è lo stesso ma è nuovo, ci avrà due mesi. Solo che non avendo tempo le configurazioni lasciavano il tempo che trovano, poi c'è anche l'altro nuovo che è un grosso ricevitore, sono tutti digitali e quindi mi ha occupato molto ma molto ma molto tempo e ancora non è finita. E quindi ripeto, finalmente sono, le ho fatto ingoiare le broadcasting, almeno quello riesce a fare, ecco. Le stavo memorizzando e quindi niente, una faticaccia, guarda. Eia, ma qua hai fatto dei settaggi nuovi per la modulazione, qualcosa di diverso o no? No, credo di no, penso, perché con la roba che ha toccato, chissà cosa è successo. No, sì, sto uscendo un po' più forte, al posto di 2, qua mi segna 3 watt, quindi forse da quello. No, non parlo di potenza, parliamo come qualità di emissione, la sento un po' più corposa e un po' più alta la modulazione rispetto al passato, sarà un'impressione mia, dai. Non lo so, magari il mio no. Neanche c'è il processore, quindi non c'è neanche il problema del processore. No, niente, praticamente è normale. Ho stretto un po' più, sì, questo è stretto. Sì, non c'è niente di particolare. E tu Marco invece, sta radiolina, la stai facendo andare? Sì, Gianfranco. Peraltro la batteria non si è ancora scaricata, dura un sacco quella batteria a siluretto lì. Ho anche comprato il ricambio da 3000 mAh della Samsung, così se sono fuori in macchina con l'antenna quella multibanda e se si esaurisce una batteria c'ho l'altra già carica, capito? Come facevo col Texun, però Texun aveva l'estilo, era un po' più comodo per quello, vabbè, questa dura un bel, te ne dimentichi. Avevo provato anche con quel programma per decodificare i segnali digitali, però essendo pasticcione e sentendo un suono e non sapendo quale delle tante emissioni era, io mettevo un po' a caso, poi non mi ero accorto che dovevo centrare il cursore sull'emissione che si vede, il waterfall, come lo vuoi chiamare. Insomma, ho pasticciato un po'. Comunque il cavetto per XP ce l'avevo già, il cavetto stereo per XP c'era già, quindi comparivano lettere, però dovevo imparare a usarlo il programma, ripeto, mai toccato, quindi devo impratichirmi. Più che altro mi piace la fonia, però anche lì meglio dare un'occhiata. Bene, vai Roberto. Un interrogativo, ma non hai l'ingresso USB per ricaricare le batterie, tu Marco? Sì, Robè, c'è l'ingresso USB, ma per la batteria dicevi, no, ti spiego, siccome quello l'ho preso anche per quando farà bel tempo per portarlo in macchina, quando vado fuori, Pro Torres, Prata Mona, insomma, per portarmelo appresso, appunto, se nel mentre che stai ascoltando ti finisce la batteria, c'ho l'altra già carica, sì, confermo, con la caricatore USB. Non sapevo se prendere un caricatore da muro, perché ce n'è un carascio da Amazon, da AliExpress, però mi sa che me lo tengo così, non faccio ulteriori spese per quello. Sai cosa avrei voluto prendere invece? Questa, a costo di metterla sul tetto, di fare il colpaccio e metterla sul tetto, questa MLA30 loop magnetica cinese, tutti l'hanno comprata, rende discretamente nonostante i 30-40 euro di prezzo, prende molto meno QRM, c'è una certa direttività, non troppa però, qualcuno ha notato, forse per come è costruito. Non so se c'è presente, MLA 30 o 30 Plus, adesso c'è il 30 Plus e l'hanno un po' ottimizzata, credo. basta prendere un pezzo di canalina o canaletta, vabbè, una canalina, tubo in plastica, fissarla con le fascette, gli allarghi il cerchio, no, che arriva ripiegato, e molti la stanno prendendo e stanno facendo dei belli ascolti. Molto, ma molto meno rumoroso, il terrazzino o comunque più alto possibile, possibilmente sul tetto. Vai Gianfranco. Sì, bisogna che ti organizzi, così almeno lascio un'antenna libera. Una di quelle antenne può essere utile, l'importante è che non ci siano troppi disturbi in zona, perché sennò ti massacrano. Cosa ti volevo dire? Quel programma è abbastanza semplice, intuitivo, ti devi solo fare un po' l'orecchio alle emissioni, ma se vuoi da qualche parte c'ho anche che ne so, delle liste di frequenza che potresti usare come riferimento, ecco. Tra l'altro quello che ha scaricato, benché ci abbia tante cose, la parte professionale, diciamo, che vedi a destra, è dedicata solo, cioè funziona, sì, però per soli 5 minuti, mentre la parte a sinistra, quella amatoriale, che però contiene tantissime cose, quella funziona sempre. E in più puoi anche trasmettere, se c'hai un trasmettitore ovviamente. E già da lì ricevi anche il packet, anche se non lo so se quello ricevuto riceva un packet. Comunque è molto interessante, vedrai, anche se non senti la voce, però ti rendi conto di dove può arrivare una radio HF rispetto alle radioline che sentiamo di solito, ecco. A te Roberto. Vabbè, io riprendo per salutarvi, dai, che adesso mangio qualcosina anche io, mi è venuta fame anche a me, dai. Vi saluto, dai, poi proseguo di conversazione, magari ci sentiamo in un'altra situazione domani se ci siete, tanto domani non si farà niente, credo, con questo discorso di uscita e il tempo che non lo permette. Di nuovo, auguri a tutti e due, ciao ciao, io faccio correttivo. Cappa, ciao Roberto, dai, buona serata, buon tutto, ci sentiamo quando capita, come dico sempre io, dai, non sono assiduo in radio. E non voglio esserlo nemmeno. Vai Gianfra. Sì, ciao Roberto, buona serata e ancora auguri anche a te. E a presto a risentirci. Quindi Marco, capito, funziona bene, è uno tra i migliori, quello di troppo posso garantire. Sì, sì, ho visto la sezione è dedicata al professionale, ma lì si attiva anche pagando, almeno per la ricezione mi pare. Poi vabbè, chi è abilitato, chi ha la patente amatoriale, sì, ho capito che può fare anche altre cose, insomma, tipo trasmissione. È interessante comunque, dai, interessante. Comunque qua come zona, secondo me è abbastanza rumorosa, perché l'antenna c'è tutta da via Savoia in su, i palazzi più alti. Quindi io qua ogni tanto mi lamento, rumori tipo fonti, tipo lavatrice, no? Motori elettrici. Però questo posso ottenere, di più non posso fare. Se voglio un ascolto pulito, ripeto, era andato da più su del centro ecologico. Al fianco ho un campetto di calcio, credo che sia anche una casa cantoniera quella che c'è, sempre chiusa, spoglia è chiusa. E lì nonostante mi pare che passi pure un cavo dell'alta tensione, non mi ricordo bene se è lì però, la ricezione era pulita. E rispetto alla prima registrazione che avevo fatto, che avevo mandato non so se a Roberto o a chi, non mi ero accorto che c'era il filtro a 1 kHz in banda laterale, quindi il suono era più brutto, l'ho messo a 2,2 e ha migliorato tantissimo. Può mettere mi pare 4 kHz, 3, 2, 2, 1,5, 1 e 0,5, che vabbè, l'ho lasciato a 2,2, sembra adeguato, dai. Sì, 2,2 è sufficiente, cioè anche se fosse 2,5 sarebbe ancora più espansa, poi dipende ovviamente dalle stazioni che ci sono a fianco, quindi comunque c'è importante, è una cosa buona che ci abbia già i filtri. Il mio ad esempio il Dacia non ce li ha, credo, anche se si sente benissimo, però non ce li ha, quindi lì è una cosa indubbiamente positiva. E niente, quindi ho trovato senza difficoltà la presa audio, diciamo, quindi vedi che scorre il coso lì, il monitor, chiamiamolo così, adesso non mi viene il termine. sta andando tutto, dai, tanto è un normale cassetto audio collegato alla scheda audio del PC. Sì, aggiungo io, purtroppo non viene dal cuore della radio, ma dall'uscita a cuffia, però. Bene, bene. Ma poi ho fatto delle prove terra a terra di ricezione con la 5 ottavi, che non è assolutamente ottimale, però quello che sentiva, che ne so, le CDR di Roma, una stazione che sentiva Roma io non la sentivo, viceversa, una stazione che le CDR di Roma non sentiva la ricevevo io, quindi in base alla condizione di propagazione, dai. Credo peggio, credo molto peggio, invece quello che costa va più che bene, dai. Bene, bene. Stavo guardando i programmi della TV, adesso mi accendo la TV e vedo che porcata c'è. TV, film, più vecchi, meno vecchi, Ghostbusters, addirittura. The Necroid giovane, tra virgolette, adesso sarà decrepito meno. C'è anche io sto facendo la stessa cosa. C'è la Fracchia la Belva Umana, 34. Poi cosa ci abbiamo? Mamma mia, fare, amore, gelosia. Ghostbusters, sì, è su Paramount, poi su Iris di nuovo è gioco. Non mi balla con i lupi, su Otto, mamma mia. Tremors su Italia 2. Questo poi Grande Fratello Vito, per carità del cielo. Forse c'è Crozza, se devi ridere un po'. L'ultimo amore di Casanova sul cielo. Poi L'attimo fuggente sulla 7. Delta Force su Spike, che non mi ricordo dove era, sul 49. Quello con tutte le linee di mezzo. Poi ci abbiamo, e poi niente di interessante, sono tutti più o meno riciclati come al solito. Eia. Ah sì, l'ho visto adesso, Delta Force, di quello ho il DVD ancora. No, sbagliato, era Rombo di Tuono quello che ho io, sempre con Chuck Norris. Eia. Ma mi sa che Ghostbusters non lo vedo da secoli. E poi c'è Sigourney Weaver nel film, quella di Alien, un donnone, quanto sarà? 1,85 m alta. E poi tutta muscolosa, no? Troppo. A me piacciono le donne, no? Non queste cose così grosse, muscolose, come quei bicipiti spaventosi. No, è cosa per me. No, anzi all'epoca, Gianfra, questo è dell'84, all'epoca Sigourney Weaver ancora era, come dire, normale, diciamo si è pompata leggermente di più per Alien 2 e Alien 3, e il 4 non ne parliamo, il 4 era più palestrata, più tonica, anche perché poi con l'età bisogna tenersi un po' su di muscoli, se no ne scende tutto. Qua è ancora femminile, garantito, sì. Bene. Ok, aggiudicato. Mi fa che inizia alle 9. 9? Alle 9, dai. Io quasi quasi chiudo, poi si sente con calma. Ok. Buona serata, Gianfra, buon tutto. Avrei già cenato sicuramente. Ci sentiamo quando capita, ok? Ok, va bene, tienimi informato su quella, su quei progressi con quel programma, che c'è veramente da divertirsi. Tieni presente che ci sto combattendo con queste cose da alcune settimane, perché ho dovuto rinnovare anche tutto il quadro comandi che avevo progettato io per il settore digitale, lo devo ancora trovare. E se c'è qualcuno in grado di ascoltare, quindi qualche prova di messaggistica con quel programma la posso fare senza problemi, così mi dici se mi decifri correttamente, se va tutto bene, tanto avremo tanti di quei sistemi da provare, così almeno senti anche il rumore di ogni sistema che ti fa l'orecchio, capito Marco? E sicuramente sarà interessante. purtroppo non puoi ascoltare perché lì bisognerebbe aprire l'apparecchio, una cosa un po' difficile, e non puoi ascoltare le broadcasting in HF, e chiaramente non quelle normali, le broadcasting HF in digitale, che sono uno spettacolo. Tu magari ascolti le broadcasting normali e a volte sono anche chiare, belle, però ti assicuro che quelle digitali sono quasi meglio dell'FM. Presumo di sì, in M c'è questo via vai, un po' questo effetto fading, non so come definirlo. Digitale è stabile la cosa, dovrebbe essere stabile. E io, vabbè, cercherò di far pratica, che ogni volta mi devo cavare il computer qua, portatile, mettere i cavetti a mezza altezza, e l'altra volta per poco non straccio tutto, è un po' disposta male qua. E io ho poco spazio purtroppo per le radio, non ho mai voluto sacrificare i tavolini interi per mettere tutta roba, così apparecchiature. Ma in camera del computer potrei farlo, però sempre il cavo grosso arriva in questa camera, non fa mettere più lunghe, poi ci strampa mamma e mi straccia anche i baracchini, me li tira a terra o radio. Ok, vedremo da in base alla voglia cosa ne esce, ok? Ci sentiamo, ciao, buona serata. Ok, ciao, buona serata anche a te e ancora auguri. Alle prossime.